Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Non dimenticherò mai l'ultima notte, buia, ventosa e stellata. Io governavo. Il signor Burns, dopo aver ottenuto da me la solenne promessa che l'avrei svegliato con un calcio se succedeva qualcosa, si era profondamente addormentato in coperta, vicino alla chiesuola. I convalescenti hanno bisogno di dormire. Ransom, con la schiena appoggiata all'albero di mezzana e una coperta sulle ginocchia, stava perfettamente immobile, ma non credo che abbia chiuso occhio per un solo attimo. Il francesino, vera personificazione della vivacità, e ancora illudendosi che gli rimanesse un po' di scatto, aveva insistito per unirsi a noi, ma, rispettoso della disciplina, si era sdraiato più lontano possibile a prora via, lungo la rastrelliera dei buglioli. Ed io governavo. Troppo stanco per provare ansietà, troppo stanco per formulare un pensiero filato. Avevo momenti di truce esultanza, e poi il mio cuore sprofondava nella disperazione, ripensando a quel castello di prua, all'altra estremità di quella buia coperta, pieno di uomini in preda alla febbre, alcuni quasi morenti. Per colpa mia. Ma non importa. C'era tempo per avere rimorso. Ora dovevo governare. Nelle ore piccole la brezza scarseggiò, poi mancò completamente. Verso le 5 riprese, abbastanza tesa da permetterci di fare rotta sulla rada. L'alba trovò il signor Burns che sedeva, puntellato tra ruote di cavi, sul carabottino di poppa, e dalle profondità del suo cappotto governava la nave con mani bianchissime ed ossute, mentre Ransom ed io correvamo lungo i ponti a mollare in bando tutte le scotte e le drizze. Poi ci precipitammo all'estrema prora. La fatica e il puro e semplice nervosismo ci facevano letteralmente sgocciolare il sudore dalla fronte mentre lavoravamo a mettere le ancore a pennello. Non osavo guardare Ransom mentre lavoravamo l'uno accanto all'altro. Scambiavamo brevi parole. Lo udivo che ansimava vicino a me ed evitavo di volgere gli occhi dalla sua parte nel timore di vederlo cadere e spirare nell'atto di spremere le sue forze. Per che cosa? In realtà solo per un consapevole ideale. Si era destato in lui il marinaio di consumata abilità. Non aveva bisogno di istruzioni. Sapeva ciò che doveva fare. Ciascuno sforzo, ciascun movimento era un atto di concreto eroismo. Non spettava a me di sorvegliare un uomo talmente ispirato. Infine, tutto fu pronto e lo udii dire: «Non farei bene ad andare a basso ora, a manovrare gli strozzatoi, capitano?» «Sì, va», dissi. Ed anche allora non guardai dalla sua parte. Dopo un poco dalla coperta salì la sua voce. «Quando volete, capitano! Pronti al molinello!» Feci un cenno al signor Burns di portare la barra sotto vento e poi mollai le ancore l'una dopo l'altra, lasciando che la nave filasse quanta catena voleva. Ne filò la maggior parte prima che si fermasse. Le vele mollate presero a collo e cessarono il loro esasperante frastuono sul mio capo. Un completo silenzio regnò sulla nave. E mentre un poco stordito da quella subitanea pace indugiavo all'avanti, colsi appena uno o due gemiti e l'incoerente borbottio degli ammalati nel castello di prua. Siccome avevamo alzato sull'albero di mezzana il segnale di richiesta d'assistenza sanitaria, prima ancora che la nave fosse bene ancorata, tre lance a vapore, appartenenti a diverse navi da guerra, arrivarono sotto bordo. e almeno 5 medici della Marina Militare si arrampicarono a bordo. Rimasero in gruppo guardando su e giù per il ponte principale. Poi alzarono lo sguardo in coffa, senza scoprire un solo uomo d'equipaggio. Andai incontro a loro. Una figura solitaria in pigiama a righe azzurre e grigie e con un casco di sughero in testa. Furono estremamente seccati. Ci aspettavano casi chirurgici. Ognuno aveva portato con sé i suoi bisturi. Ma non tardarono a superare la loro piccola delusione. In meno di 5 minuti una delle lance a vapore stava filando a terra per far venire una capace imbarcazione e infermieri per il trasporto dell'equipaggio. La grossa pinaccia a vapore se ne tornò alla sua nave a prelevare alcuni marinai che mi serrassero le vele. Uno dei medici era rimasto a bordo. Uscì dal castello di prua con aria impenetrabile e notò il mio sguardo interrogativo. «Non c'è nessun morto là dentro, se è ciò che volete sapere», disse con decisione. Poi aggiunse con intonazione stupita: «L'intero equipaggio». «Molto gravi?» «Molto gravi», ripeté. I suoi sguardi percorrevano tutti i ponti. «Santo cielo! Che cos'è quello?» «Quello», dissi, guardando a poppa, «è il signor Burns, mio primo ufficiale». Il signor Burns, con la sua testa di moribondo ciondolante sul gambo del suo collo magro, era uno spettacolo da far lanciare un'esclamazione a chiunque. Il medico chiese: «È da ricoverare anche lui in ospedale?» «Oh no», dissi con tono scherzoso, «il signor Burns andrà a terra quando ci andrà l'albero di maestra. Sono molto orgoglioso di lui. È il mio unico convalescente». «Avete un aspetto», prese a dire il dottore guardandomi fisso. Ma l'interruppi rabbiosamente. «Non sono malato». «No, ma l'aspetto è strano. E beh, sapete, sono rimasto 17 giorni in coperta». 17? Ma avrete pur dormito?» «Penso di sì, ma non lo ricordo. Durante le ultime 40 ore sicuramente no». «Andrete subito a terra, no?» «Appena potrò. A terra ho da sbrigare un mucchio di faccende». Il medico lasciò andare il polso che mi aveva tastato mentre parlavamo. Tirò fuori il suo taccuino, vi scrisse su rapidamente qualcosa, strappò la pagina e me la porse. «Vi raccomando caldamente di farvi preparare questa ricetta a terra. Se non prendo un abbaglio, ne avrete molto bisogno stasera». «Ma che cos'è?» chiesi con sospetto. «Un sonnifero», rispose il medico brevemente. E dirigendosi con aria interessata verso il signor Burns, si mise a discorrere con lui. Mentre scendevo a basso a vestirmi per andare a terra, Ransom mi seguì. Chiedeva scusa, ma voleva essere sbarcato e liquidato anche lui. Lo guardai sorpreso. Aspettava la mia risposta con aria ansiosa. «Non vorrei lasciare la nave», gridai. «Sì, capitano. Voglio andarmene a stare tranquillo da qualche parte. L'ospedale andrà benissimo». «Ma, Ransom», dissi, «non posso ammettere che tu te ne vada». «Debbo andare», proruppe. «Ne ho il diritto». Ansava e un'aria di decisione quasi selvaggia gli passò sul volto. Per un attimo fu un'altra persona. Ed io vidi sotto i pregi e la presenza di quell'uomo l'umile realtà delle cose. La vita, questa vita dura e precaria, era un dono prezioso ed egli era seriamente impensierito per se stesso. «Certo che ti sbarco se lo desideri», mi affrettai a dire. «Debbo solo chiederti di restare a bordo fino a questo pomeriggio. Non posso lasciare il signor Burns assolutamente solo sulla nave per delle ore. Si raddolcì subito e mi assicurò con un sorriso e con la sua gradevole voce naturale che capiva benissimo la cosa. Quando tornai in coperta, tutto era pronto per il trasporto dell'equipaggio. Fu l'ultima dura prova di quell'episodio che mi aveva maturato e temprato il carattere, seppure a mia insaputa. Fu terribile. Mi sfilarono dinanzi agli occhi uno dopo l'altro. Ognuno mi appariva come un vivente rimprovero, tanto amaro da suscitare in me una specie di ribellione. Il povero francesino aveva improvvisamente ceduto. Lo trasportarono dinanzi a me in stato di incoscienza, con quella sua comica faccia orrendamente arrossata e come gonfia, col respiro cavernoso. Sembrava più che mai Pulcinella. Un Pulcinella vergognosamente ubriaco. L'austero Gambrill, al contrario, era momentaneamente migliorato. Volle assolutamente andare con le proprie gambe fino alla battagliola, naturalmente sorretto dalle due parti. Ma al momento di essere calato fuori bordo, cedette ad un improvviso panico e si mise a gemere pietosamente. «Dite che non mi mollino, capitano!» E intanto continuavo a gridargli con l'accento più persuasivo. «Va bene, Gambrill. Non ti molleranno. Non ti molleranno.» Era indubbiamente una cosa molto ridicola. I marinai della nave da guerra sorridevano silenziosamente e persino lo stesso Ransom, sempre tra i primi a dare una mano, fu costretto ad accentuare il suo penoso sorriso, fugacemente. Me ne andai a terra con la pinaccia a vapore e nel guardare indietro scorsi il signor Burns ritto in piedi, accanto al coronamento, ancora avvolto nel suo enorme cappotto di lana. La risplendente luce solare metteva in risalto il suo fantastico aspetto. Pareva uno spaventapasseri terribile e perfezionato, piantato sul casseretto di una nave colpita dalla morte per tener lontano dai cadaveri gli uccelli marini. La nostra storia già circolava in città e tutti a terra si mostrarono pieni di cortesia. L'ufficio del porto mi esentò dal pagamento dei diritti portuali e poiché alla casa del marinaio era ospitato l'equipaggio di una nave naufragata, non ebbi difficoltà a trovare quanti uomini volevo. Ma quando chiesi se potevo fare una brevissima visita al capitano Ellis, mi fu risposto, con l'aria di compatirmi per la mia ignoranza, che il nostro vice Nettuno era andato in pensione ed era rimpatriato circa 3 settimane dopo che avevo lasciato il porto. Ritengo quindi che la mia nomina sia stato l'ultimo atto ufficiale della sua carriera, all'infuori delle normali pratiche quotidiane. Strano come sbarcando rimasi colpito dal passo elastico, dagli occhi vivaci, dalla robusta vitalità di tutti coloro che incontravo. Mi fece un'enorme impressione. E tra coloro che incontrai ci fu naturalmente il capitano Gilles. Lo straordinario sarebbe stato se non l'avessi incontrato. Quando era a terra, dedicava regolarmente tutte le mattine a un prolungato giro nel quartiere degli affari. Il mio occhio colse da molto lontano il luccichio della catena d'oro attraverso il suo petto. Tutta la sua persona irradiava benevolenza. «Ma che cosa sento?» si informò con paterno sorriso dopo avermi stretta la mano. 21 giorni da Bangkok!» «Non sapete altro?» dissi. «Dovete venire a colazione con me. Desidero sappiate esattamente in che guaio mi avete cacciato.» Esitò quasi un minuto. «Ebbene, vengo», decise infine accondiscendendo. Entrammo in un albergo. Con mia sorpresa scoprì di avere grande appetito. Poi, a tavola apparecchiata, rivelai al capitano Gilles tutta la storia da quando avevo preso il comando, in ogni suo aspetto professionale ed emotivo, mentre egli fumava pazientemente il grosso sigaro che gli avevo dato. Poi, giudiziosamente, osservò. «Dovete sentirvi ben stanco a quest'ora.» «No», dissi, «non stanco. Ma ora vi dico io, capitano Gilles, come mi sento. Mi sento vecchio.» tutti voi a terra mi sembrate una banda di scapestrati giovincelli che non hanno mai avuto un pensiero in vita loro. Non sorrise. Aveva un'aria esemplare, insopportabile. Dichiarò: «Vi passerà. Effettivamente però sembrate più vecchio. È un fatto». «Ah», feci io. «No, no, la verità è che nella vita non si deve dare troppo peso a nulla, né in bene né in male». «Una vita a mezza forza», mormorai malignamente. «Non tutti ne sono capaci». «Eppure, sarete già contento se riuscirete ad andare avanti a quella velocità», ribatté con la sua aria di consapevole virtù. «E c'è un'altra cosa da aggiungere. Un uomo deve affrontare la sua cattiva sorte, i suoi errori, la sua coscienza e via dicendo. Perbacco, contro che cosa vorreste lottare altrimenti?» Rimasi in silenzio. Non so che cosa mi abbia letto in faccia, ma di colpo chiese: «Sentite, non sarete mica scoraggiato?» «Iddio solo lo sa, capitano Gil», rispose in tutta sincerità. Va bene», disse con calma. «Presto imparerete come si fa a non essere scoraggiati. L'uomo deve imparare tutto. È ciò che tanti di quei giovincelli non capiscono». «Ebbene, non sono più un giovincello». «No», concedette. «Partite presto?» «Vado subito a bordo», dissi. «Salperò una delle mie ancore e virerò in dentro mezza lunghezza di catena dell'altra, appena viene a bordo il mio nuovo equipaggio. E domani all'alba me ne vado». «Davvero?» grugnì il capitano Gil approvando. «È così che si deve fare». «Ma che cosa credevate? Che mi sarei preso una settimana di riposo a terra?» dissi, irritato dal suo tono. «Non avrò riposo finché la nave non sarà al largo dell'Oceano Indiano, e forse neanche allora». Tirò una boccata dal sigaro con aria pensosa, come se fosse cambiato. «Sì, in fin dei conti, tutto si riduce a questo», disse in tono trasognato. Era come se un pesante sipario si fosse alzato lasciando vedere un capitano Gil inatteso. Ma fu solo per un istante, solo quel tanto da lasciargli soggiungere: «Mai un minuto di riposo nella vita, per chiunque. Meglio non pensarci». Ci alzammo, ce ne andammo dall'albergo e ci separammo per strada con una colorosa stretta di mano, proprio quando cominciava a interessarmi per la prima volta da che ci conoscevamo. Tornato sulla nave, per prima cosa vidi Ransom sul cassero, seduto quietamente sulla sua cassetta da marinaio accuratamente legata. Gli feci cenno di seguirmi nella saletta dove mi sedetti per scrivergli una lettera di raccomandazione a un mio conoscente a terra. Quando l'ebbi finita, la spinsi attraverso la tavola. «Ti potrà essere utile quando lascerai l'ospedale». Egli la prese e la ripose in tasca. I suoi occhi erano rivolti altrove, nel vuoto. Il viso aveva un'espressione ansiosa. «Come ti senti adesso?» chiesi. «Adesso non mi sento male, capitano», rispose prontamente. «Ma ho paura di quello che può capitare». Il pensoso sorriso gli tornò sulle labbra un istante. «Ho una paura matta per il mio cuore, capitano». Mi avvicinai a lui con la mano tesa. I suoi occhi, che non mi guardavano, avevano un'espressione forzata, come di un uomo che tende l'orecchio a un richiamo ammonitore. «Non vuoi stringermi la mano, Ransom?» dissi dolcemente. Diede un'esclamazione. Diventò tutto rosso. Mi strinse vigorosamente la mano. Ed un momento dopo, rimasto solo nella saletta, lo ascoltavo salire la scaletta, cautamente, gradino per gradino, con la paura mortale di provocare l'improvvisa ira della nostra comune nemica, che la sua dura sorte gli imponeva di portare consapevolmente nel petto leale.